credo che la nostra analisi sul bipolarismo trova purtroppo conferme. La prima, un numero di astensionismo enorme. E la seconda cosa, la Lega straripa, per cui un governo che da ora in avanti avrà sempre più l'egemonia della Lega, e dall'altra parte Di Pietro e i grillini, questo fenomeno nuovo che metterà in grandissima difficoltà il PD.